21.07 Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Anche per oggi 10 aprile 2019 inizia l'ennesimo appuntamento con prove tecniche di trasmissione. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30 circa. Il palinsesto verrà chiuso da 25 o'clock. Una consueta selezione che spazierà dall'ambient, dall'industrial, dal noise, dalla power electronics, da uno spazio esistente ormai da lontano 1992. Salutiamo Maia della Sardegna, Lucia Cagliazza in arte Lupsi, in arte Lupsi da Udine, Nicola Locce Stragonal dalla Sardegna anche lui, Giovanni Lisi della Puglia, Antonio Zoviet, Omicidio, lui da Firenze, Like Awake, valente artista ambient qui da Roma, il caro Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Antonella dalla Sicilia, Tania qui da Roma, Sandra qui da Roma. Prima di iniziare ricordiamo ancora una volta la campagna di crowdfunding di Radio Abbonamento, questo abbonamento annuale di 30 euro, miriamo a 1000 sostenitori entro la fine di maggio, compleanno peraltro di Radio Onda Rossa, e quindi chi vi volesse aderire a questa campagna, ci sono le varie modalità andando sul sito e cliccando sul banner specifico. €30 all'anno, ossia €2,50 al giorno, per consentire a questa voce antagonista di continuare in maniera autogestita, senza qualsivoglia forma di pubblicità. Si va a salutare FM Genovese, anche lui ottimo musicista di area IDM Ambient, e quindi andiamo proprio con un musicista italiano ad iniziare con l'ultimo passaggio per quanto riguarda 17 in Course. Lo abbiamo ascoltato e conosciuto abbastanza, devo dire, in queste settimane. Un album che esce per la New Model Label di Govind Singh Khurana, lui proveniente da Ferrara. Pianismo notturno, IDM, anche qui sonorità crepuscolari e rarefatte. Malinconia, quanta ne volete, un ottimo album questo 17 in Course. Anche per questa sera tre brevi passaggi: Wolverine, The Tide e Opono No Piano. Anche questa sera abbiamo dedicato svariati minuti a Daniele Bogon, questo artista proveniente da Padova. Abbiamo dedicato molti minuti a 17 in Course, il suo ultimo lavoro, in realtà un'estensione di un vecchio lavoro di qualche tempo fa. Struggente questo pianismo, decisamente affascinante, prende al cuore e alla gola e ai sensi. E non soltanto a me, vedo, per esempio, il buon Nicola se lo è reperito. Nicola Locci, come giusto che sia, è bello anche supportare la scena indipendente anziché altro. Intanto ringrazio ancora Lucia Cagliazza, che ci nobilita qui il mio profilo personale di DJ Elettrodo, che mentre chiacchiero con chi mi sta ascoltando, lei nobilita con la mia pagina, con questi bellissimi visuals, devo dire, inerenti alle atmosfere che ci stiamo godendo in questo momento. Sarei tentato anche di mandarlo la prossima settimana, se magari non annoia troppo, non credo, perché sarebbe in ogni caso il quinto passaggio e non capita spesso di mandare un disco per così tante volte. Adesso un artista che alterna invece atmosfere più rabbiose ad altre quasi neoclassiche operistiche, una grande voce femminile, e naturalmente sto parlando di Lingua Ignota, in realtà un progetto americano. Con all'attivo tre lavori, questo era il primo del 2017, un lavoro autoprodotto dal nome Let the Evil of His Own Lips Cover Him. Anche qui il pianoforte la fa da padrone, devo dire, e lo possiamo apprezzare soprattutto in The Chosen One e poi in Bad Boys, Lingua Ignota. Thank you. Bye. Era dunque Lingua ignota con questi due passaggi di questo lavoro del 2017. E va a arricchire lei, Christine Eiter, Lingua ignota, un grande universo femminile musicale degli ultimi tempi. Ne citiamo qualcuna che abbiamo anche apprezzato da queste parti: Pusey Mary, Pharmacon, Anne von Auswolf. E forse proprio Lingua ignota in qualche modo somiglia a quest'ultima. Anche delle venature di blues malatissime in questa Bad Boys, che andava a chiudere questo primo album di Lingua ignota. 21:37, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Cycle per second, lui è Job Karma. Intanto un benvenuto speciale a Sandra qui di Roma, che salutiamo di nuovo. E ci siamo abbandonati, almeno io mi sono abbandonato qui negli studios di Radio Onda Rossa, questo viaggio sensoriale, un vero e proprio viaggio sensoriale. Mi sono perso il Job Karma in questo Cycle Per Second, primo lavoro del 1998. I visuals di Lucia non a caso ricordano in qualche modo la tematica del viaggio, ma il viaggio soprattutto interiore, questi sentieri più nascosti del nostro io. Tematiche alle quali mi sento assai vicino, e non è un caso che ho un innamoramento speciale per Job Karma, questo duo proveniente dalla Polonia. Formato da Maciek Friet e Aurelius Pisarzewski, e Maciek Friet ha anche il merito speciale di organizzare un meraviglioso festival ogni novembre di ogni anno a Wrocław in Polonia, dove sono stato 2 anni fa e dove quest'anno per esempio suoneranno Test Department, Kamasots, Nocturnal Emissions, Seti, ossia Lagowski, e tanti tanti altri talenti della scena mondiale. Job Karma, che presto, del quale presto andremo ad ascoltare anche qualche altro lavoro. Ancora un universo femminile, e qui stiamo andando verso calibri forti, calibri storici. Lei è Kosei Fenni Tutti, indimenticata leader anche dei Throbbing Gristle, quindi un pezzo di storia della scena industrial mondiale. Credo che gli affezionati di questi spazi non abbiano ulteriori presentazioni rispetto a Throbbing Gristle. La sua carriera solista di Kosei Fenni Tutti consiste in 3 lavori, e questo è il 3° lavoro dal nome così, Tutti, semplicemente Tutti come il suo cognome. Anche qui labirinti elettronici, sintetici, ipnotici, ma anche atmosfere più immobili. Questa sera è il turno di Seific Ripple e Split. ancora cose fene tutti dal suo album, terzo album tutti, Onda Rossa, prove tecniche di trasmissione, ore 21:57.